Quando abbiamo cominciato a pensare al nostro programma, avevamo l'intenzione di iniziare le puntate partendo dalle conte, proprio come in un gioco. Per questo avevamo contattato il professor Pompeo Vagliani, docente di letteratura per l'infanzia e direttore della Fondazione Tancredi Barolo. Purtroppo le contingenze non ci hanno permesso di fissare un incontro prima della fine di marzo. Una settimana fa finalmente siamo riusciti a incontrarci, qui in Via Verdi 8, nel nostro studio di 110 Web Radio, e abbiamo parlato di Conte in sua compagnia e della dottoressa Luciana Pasino. Abbiamo realizzato una lunga intervista che abbiamo diviso in due parti. Si è parlato di Conte, di filastrocche e di studi letterari, si è avuto modo di presentare qualche problema accademico relativo allo studio delle Conte e presentare alcuni dei libri più importanti che trattano dell'argomento. In questa settima puntata di Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, vi presentiamo la prima parte del nostro colloquio. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo. Web Radio, Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, settima puntata. Come abbiamo sentito dall'introduzione, abbiamo due super puntate da proporvi, con dei lunghi spezzoni e degli interlocutori di eccezione. Il professor Pompeo Vagliani, direttore della Fondazione Tancredi Barolo e del Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, e la dottoressa Luciana Pasino, studiosa di letteratura per l'infanzia, autori, tra le altre cose, di un libro recentemente edito dal titolo Il primo giorno di scuola, che raccoglie le testimonianze di maestri e professori sul proprio primo giorno di scuola, dall'unificazione italiana a oggi. Abbiamo invitato il professor Vagliani e la dottoressa Pasino nei nostri studi di Via Verdi 8 per parlarci di Conte e di filastrocche. Il primo spezzone che ascoltiamo ci spiega il lavoro del professor Vagliani e in che contesto si colloca il suo interesse per le Conte. Grazie, beh, io sì, in effetti riparto proprio da una ricerca fatta anni fa, che era poi confluita in una mostra che si chiama Aritmetica Giocosa, giocare con i numeri, che prevedeva uno scandaglio abbastanza approfondito su quanto era prodotto in Italia e all'estero tra l'Ottocento e il primo Novecento in termini di materiali didattici, giochi e libri per bambini, no? Che avvicinassero appunto i bambini alla matematica. In questa ricerca, che poi appunto era confluita in una mostra, erano anche presenti dei libri per bambini che riportavano filastrocche, giochi di conta, che avevano la loro origine in realtà nella pratica di gioco, sì, dei bambini, no? Però naturalmente la mostra e la ricerca di allora di Numeretta guardavano soprattutto questo materiale diverso. Ancora sono entrato sul discorso della filastrocca l'anno scorso e quest'anno anche nel corso monografico che tengo di storia di letteratura, sì, per ragazzi nell'ambito del corso di laurea di beni culturali archivistici e librari. Sì. Il tema è la filastrocca e il nonsense, quindi il legame forte in questo caso è con la presenza nell'ambito della letteratura per ragazzi, quindi della storia della letteratura per ragazzi, della filastrocca e del nonsense, perché vedremo che c'è un forte collegamento anche tra proprio il testo della filastrocca che si usa ad esempio anche nelle Conte e il nonsense. Sì. E a questo proposito invece il corso di questi due anni è un percorso all'interno della letteratura per ragazzi che parte da lontano, parte dalla cultura popolare anche lui, no? Quindi vedremo Seves, un autore che per un raccoglitore di filastrocche e sorteggi tra l'altro delle valli piemontesi di Pinerolo, sì, sì, no? Quindi Comunque, ci sono lo studio delle filastrocche, poi lo vedremo meglio, è molto, in realtà è abbastanza approfondito, però soprattutto non da un punto di vista generale ma molto locale, nel senso si tende a cogliere, certo, si privilegia soprattutto anche la storia dei raccoglitori di questi testi, è, sì, una storia di studiosi del folklore che, sì, poi verranno, sì, citati, sono i più importanti, no? Dicevo, nell'ambito del corso questo sulla filastrocca e nonsense invece si esalta soprattutto il contenuto nonsensico, quindi si collega nell'ambito della letteratura per ragazzi i rapporti per esempio tra Italia e Inghilterra, sì, no? Quindi da quando arriva Lear, da quando arriva Carroll, e quindi Carroll gioca al massimo con le filastrocche e i nonsense inglesi, facendo parodia rispetto a questi testi molto, molto conosciuti dai bambini. Di Carroll, l'autore di Alice. Di Alice, sì, esatto. Sì, quindi libri di Alice. Per farci capire. No, che li conosciamo tutti. E la cosa divertente è appunto che Carroll fa la parodia delle canzoncine per bambini inglesi e quindi rendendole ancora più divertente. Nonsense. È un doppio nonsense. No? Questo genera ovviamente il massimo del divertimento. È molto difficile rintracciare nella tradizione dei libri per bambini italiani questa presenza del nonsense, cioè bisogna aspettare il Novecento e poi avvicinarci sempre più ai nostri giorni per trovare anche poeti, anche illustri, no? Cito, vabbè, parte Rodari, Scialoia come ultimo, che sono poi principali interpreti di questo spirito, diciamo, del nonsense, sì. Quindi dell'assurdo. E quindi nel corso, in particolare, il legame è tra questi testi e la poesia per l'infanzia. Sì. Sing a song of sixpence, a pocket full of rye, 4 and 20 blackbirds baking a pie. When the pie was opened, the birds began to sing. Wasn't that a dainty dish to set before the king? Bim Bum Bale Giù, settima puntata. Parliamo di Conte in compagnia del professor Vagliani e della dottoressa Pasino. In questo secondo spezzone la dottoressa Pasino inizia a illustrarci quali sono le caratteristiche della conta come genere, partendo da un esempio di filastrocca molto famosa in Italia. Io ripartirei proprio con una conta che è di tutti, non è solo delle nostre parti, ma direi che in tutta Italia si trova, ed è Ambarabà Cicicocò. Sì, ce la ricordiamo, Ambarabà Cicicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore s'ammalò, poi ha delle varianti, può essere anche ma la mamma la chiamò, il dottore le sgridò, eccetera, e chiude Ambarabà Cicicocò. Ecco, questa è forse la più diffusa in assoluto delle conte italiane. Qualcuno la considera nonsensica, secondo altri invece c'è un senso riposto, c'è anche una avremo spiegazione. Avremo tempo poi per... Magari ne parleremo. Tutti comunque concordano nel definirla una conta. La conta, tu forse l'hai già anticipato, è questa formuletta che introduce il gioco. Quando i bambini si organizzano per giocare, per stabilire chi sta sotto, chi va fuori, trovano un accordo attraverso la recitazione di questa conta che designa alla sorte la scelta. Alla sorte, ma anche un po' a questo potere oracolare della parola. Tradizione vuole che i bambini si dispongano in cerchio, in semicerchio o meglio ancora in cerchio se sono parecchi, e che uno di loro cominci a recitare sillabando, toccando i compagni che sono davanti a lui. L'ultima sillaba cade su quello che o sta fuori o sta sotto, sì, a seconda della situazione. E qui dicevamo comincia il gioco che può essere nascondino, le belle statuine, rialzo. Tutti questi giochi hanno un preliminare che è appunto un sorteggio e una conta di sorteggio. E qui noi ci dicevamo sì, per i bambini comincia il gioco, ma per la critica invece cominciano i rovelli perché proprio la disposizione in cerchio, i versetti nonsensici, la ripetizione, il toccare il compagno, la formula ha naturalmente scatenato l'interesse intrigato, sì, degli specialisti, insomma, ma di tutte le discipline. Misteriosissimi. Sì. C'è da dire forse anche che oltre a scegliere dentro fuori, no, c'è anche la scelta del capogruppo, il del capogioco, certo, cioè, quindi capogioco. C'è anche una, è anche sì, una formula sì, di sì, identificazione del capo, quindi sì, a maggior ragione una valenza. Poi rapportata a questo aspetto oracolare profetico di cui abbiamo parlato, abbinato alla sorte, che è un po' abbinato alla sorte, abbinato al cerchio magico, sì, sicuramente non può, quindi allora subito gli antropologi hanno drizzato le orecchie, ma non solo loro naturalmente, gli storici, i linguisti, gli etnolinguisti, gli etnomusicologi, gli etnopedagogisti, quindi insomma c'è una un etnomusicologo serie. È un riferimento molto, molto sì, interessante, Lady, perché per poi esempio, diciamo il ritmo molte volte il ritmo diventa proprio anche musica, perché certo, ad esempio certo, nella produzione per l'infanzia sovente le conte e le filastrocche sono musicate, sì, e quindi proprio c'è una produzione specifica di canzoncine musicali. Poi questo adesso mi viene in mente, non so, mi viene in mente Endrigo che certo, pubblicò un la disco di canzoni certo, per bambini che erano chiaramente ispirate al conte. Alcune erano vere e proprie conte, tipo Ci vuole un fiore, quella è molto famosa. E va bene, continuiamo. Per fare un albero. Sì, per fare un albero. È veramente iterativa quella, sì, non quella è proprio è una filastrocca iterativa più che non una conta, anche se può poi come conta si può usare qualunque cosa, sì. Perché in effetti lo leggevamo proprio su questa introduzione di Seves, quindi il testo uno dei più vecchi che ci 1890. Siano tra 1890. I nostri ascoltatori non vedono, ma 1890. Abbiamo tutta una serie di libri d'epoca su questa scrivania. Beh, sì, molto, sono nel museo, cioè, quindi questi sono materiali. Questo è del 1890, quindi uno delle prime, perché insomma è subito dopo quella di Pitre, poco dopo. Ecco, ha un capitolo che si chiama Sorteggi, e nei sorteggi, dopo aver spiegato varie modalità di sorteggio, ne facciamo, riferivamo prima a tirare le busche che tutti i piemontesi conoscono, quelle con le filastrocche prevedono alcune tipologie e dopo aver spiegato che per ogni sillaba si tocca il petto dei singoli giocatori, il capogioco eccetera, a proposito di formula già Seves, quindi più di 100 anni fa, dice che queste formule sono molto intraducibili e di altre a malapena si capisce il significato. Sono le maniere più comuni di fare la conta, ma spesso anche ciò che è scritto sull'insieme di un negozio che trovasi vicino ai giocatori può fare l'ufficio di sorteggio, sillabandolo, e così pure una parola di molte sillabe che viene lì per lì in mente. Bene. Quindi la conta è molto composita, ci può essere... Casuale. L'importante è il ritmo, cioè mantenere il ritmo. Sì, il ritmo, la sillabazione e il gesto. Jumped over the moon. The little dog laughed to see the corn. The dish ran after the spoon, and the dish ran after the spoon. State ascoltando 110 Web Radio, questo è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Nella nostra settima puntata parliamo con il professor Vagliani e la dottoressa Pasino di Conte. In questa spezione di intervista parliamo di un saggio di Umberto Eco tratto dal libro Il Secondo Diario Minimo, nel quale, in maniera scherzosa e apparentemente involontaria, lo studioso solleva i problemi principali dello studio delle conte, per certi versi ancora irrisolti. Faccio soltanto un piccolo specchietto, perché nell'ultima puntata si è parlato molto della creatività del gioco, nel senso la possibilità che si ha nel gioco di poterlo personalizzare di volta in volta nelle maniere più inaspettate, e ancora una volta si dimostra come, appunto, come antropologo io ci leggo la creatività e la plasticità della cultura, però in realtà, nel senso, semplicemente noi ci facciamo quello che ci pare con questi elementi, comprese le filastrocche, nel senso forse quello che possiamo dire è che ci sono delle esigenze quali quelle ritmiche e sillabiche che insomma fanno sì che una parola ci possa tornare utile piuttosto che un'altra, però un'insegna di un negozio può diventare uno spunto. È interessante che nell'890 faccia riferimento a un'insegna di negozio. Sì, infatti. Dali Pinerolesi. No, però c'era. Forse era stato l'unico negozio di Pinerolesi. Per dire che forse proprio è cogliere anche visualmente una parola che in qualche modo stimoli. Quindi questo però è anche una forte considerazione sulla creatività poetica, sì, in assoluto. No? Ah, per beh, certo. Molti poeti, tra cui quelli che abbiamo citato prima, no? Che usano queste fonti, no? Anche in termini di creatività, loro evidentemente usano al massimo questa libertà, no? Cioè, sì. Quindi qui c'è anche proprio un'evoluzione proprio della poesia, cioè, diventa una forma di sperimentazione poetica, no? Che poi si e ritrova poi Rodari, Chalot, cioè, appunto, che si trova anche a questo livello, cioè evidentemente sì. È un terreno che dà ampio spazio alla fantasia, alla creatività. Certo, e nella filastrocca popolare sottolinea proprio la potenzialità di innovazione, che nella conta è ancora più forte che in tutti gli altri genere di filastrocche. Però, ne vedremo qualcuna che proprio sì, io innova. Direi di continuare con una cosa nostra... strana è che poi però alla fine si sedimentano una parte e alla faccia di tutto poi si ricordano, diventano storicamente, come dire, oramai quasi fisse, no? Con piccole varianti, sì, ma sì, tipo l'Ambarabacicicocò che abbiamo appena l'Ambarabacicicocò ha dato uno spunto straordinario, questo e questo lo dobbiamo proprio citare letto, perché è una delizia del divertimento a Eco, sì. Che anni fa nel Secondo Diario Minimo ha dedicato un'analisi, un saggio critico a ripercorrere tutti i presunti saggi critici su Ambarabacicicocò, che lui definisce la Sestina dell'anonimo delle civette. Quindi il punto di partenza è già straordinario. Ma è un diverso, è tutto inventato. È tutto inventato. È una parodia della critica, critica, di certo. Fatto, una parodia della critica che però mette proprio il dito nella piaga dei problemi critici relativi alla filastrocca, perché lui parte dal problema della datazione. Sì. Allora, sulla datazione cita gli storici, Vostre, piuttosto piuttosto che le goffe, e comincia a dire: forse Ambarabesci Cicocò, secondo Vossler, potrebbe venire dai Carmine Arvaglia romani, ma anche dall'undicesimo secolo, non prima, perché ci deve essere già l'università di Bologna per chiamare la figlia del dottore. Vabbè, certo, assolutamente. Ma c'è un altro storico che invece lo smentisce, perché siccome si parla di Comò, dobbiamo spostarci al XVIII secolo, perché nell'arredamento non c'è. Ecco, quindi questo dà un po' il tono. Sì, del, sì, è più una parodia, un satira. Ma continua facendo un'analisi puntuale, dicendo che è di continuo, ovviamente, analisi delle varianti. Allora, struttura della filastrocca, questo è uno dei problemi. Sì. Come è fatta la filastrocca dal punto di vista formale? E qui è una bella domanda, perché nell'analisi presunta di Contini si dice: ah, allora è una sestina. Verso iniziale e verso finale sono due doppi quinari, ma quelli interni no, sono degli ottonari. E le rime sono baciate iniziali, baciate finali, baciate centrali. Quindi è un mostro multiforme che sfugge a ogni definizione, sì, oppure le accetta tutte. E poi naturalmente Eco continua, perché c'è l'analisi strutturale di Jacobson sulla nostra sestina. C'è quella trasformazionale di Chomsky con uno schema d'albero che è veramente strepitoso. Quindi è stata anche la scusa un po' per rifare un po' la storia della critica. Però in realtà è rimarcare anche la difficoltà di approccio critico alla filastrocca. Sì, esatto, sì. Per sbaglio forse è riuscito a fare... o per sbaglio forse no. Per sbaglio no, però certamente non per sbaglio, però ridendo e scherzando. Esatto. Ridendo e scherzando, per esempio, tira fuori nell'analisi... Esatto, esattamente. Ridendo e scherzando, che male ti fa. Tira fuori persino Lacan, e quindi nell'analisi lessicale, e dice che Lacan che cosa ha esaminato? I cassetti del Comò, che sono i luoghi del rimosso. Vabbè, certo. E poi credo che chiuda con Gaimard e l'analisi attanziale. Sì, e allora nei quattro attanti naturalmente individua le civette, il Comò, il dottore, eccetera eccetera. E quindi è tutto da ridere, però appunto come abbiamo detto dà proprio il taglio del problema, non c'è una chiave unica, in realtà non ci sono tante risposte, è una specie di sedimentano anche tutta una serie, proprio storicamente sono sedimentati molti elementi all'interno delle filastrocche che sono sopravvissute, perché poi molte sono sparite evidentemente. Sì, sono rileggendo questi una tradizione testi orale, non sì, li troviamo sì, sì. più. Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't mend Humpty Dumpty again. Bim Bum Bale Giù, settima puntata. Parliamo con il professor Vagliani e la dottoressa Pasino di Conte e Filastrocche. Vi presentiamo adesso l'ultimo frammento della prima parte della nostra chiacchierata, che abbiamo avuto proprio qui, negli studi della radio in Via Verdi 8. La dottoressa Pasino entra nel merito della storia della critica letteraria partendo dai primi esempi di studi in Europa. Ci fermeremo qui. Nella prossima puntata parleremo di come si sono evoluti gli interessi sull'argomento nel nostro paese. Allora, Eco in fondo la strada ce l'ha un po' segnata, perché ci ha dato l'idea di tanti interrogativi possibili che ruotano intorno alle rime del repertorio popolare. Per esempio, la datazione, l'etimologia, l'autonomia, la filastrocca è autonoma o fa parte del gioco, è cantata o è recitata, come si trasmette, quali sono le modalità di trasmissione, che generi ha e quali e quanti sono i generi della filastrocca, che funzioni ha, che significati ha, quindi c'è una serie una foresta di domande. Ecco, e per rispondere a questa foresta di domande ci vorrebbe uno studio molto complesso e molto completo, che in questo momento in Italia non c'è. Quindi ci sono degli studi parziali che rispondono ad alcune di queste domande, ma niente di organico. Tant'è vero che uno degli ultimi saggi, che si intitola proprio Il mistero della filastrocca, e il titolo mi sembra già paradigmatico, è degli anni 90, nella prefazione, che è di un di Sanga, quindi un etnolinguista, perché in questo ambito sì, ci certo. muoviamo, Sanga dichiara subito a priori che il repertorio infantile permane per la massima parte terra nunc incognita, quindi è ancora terra molto vergine, e che soprattutto è difficilissimo delimitarla come genere. Quindi come genere abbiamo ancora delle indicazioni molto d'insieme, ma poco dettagliata. E soprattutto se si confronta con quello che è accaduto per la fiaba. Perché per la fiaba, con gli studi di Prop, di Lüth, di Thompson, abbiamo fior di classificazioni. Per la filastrocca tutto questo per il momento manca. Ma manca soprattutto in Italia, dove c'è un ritardo molto netto di almeno un secolo, anche nella fase di raccolta dei testi. Perché nel resto d'Europa diciamo che la ricerca comincia intorno alla metà del Settecento. Propongo un titolo, per esempio, e comunque la prima raccolta inglese, che è del 1744, quindi siamo metà del Settecento, e c'è la prima raccolta di Lullabies, che sono le Nina Lanni, sì. Tongue Twister, Scioglilingua, oppure queste rime, le Game, quelle per i giochi, Finger, Rhyme, quelle per le parti del corpo, le dita e così via. Quindi la prima raccolta è addirittura del Settecento. Poi quasi parallela c'è quella tedesca del 1804, il corondo del fanciullo, quindi quello di Arnim e Brentano. Quindi inizio 800 in Germania abbiamo una raccolta molto vasta. Parallelamente iniziano già gli studi, perché in Francia verso fine 800 c'è uno studio importante di Jean Rollin che individua per le filastrocche il nome di Formulette. Quindi il nome di formula è strozzeggiativo. Eh sì, che mette insieme formula e gioco, insomma. Sì, esatto. Il sortilegio, un'infantilizzazione della formula. Della formula. Come, d'altra parte, i giochi di conta sono le contine. Le contine, Il termine di nuovo diminutivo. Per specificare questo, forse il lato misterioso è proprio contenuto in quel diminutivo, in quel vezzeggiativo. Sono cose per bambini, quindi ette, in, troppo in realtà dietro quell'ette. C'è tutta la vastità. E secondo Roland, per esempio, ci sono delle funzioni. Lui indica già con molto anticipo quello che noi diciamo oggi, che avevano delle funzioni che non erano soltanto giocose, ma avevano una funzione educativa, e lo dichiara per ogni tipologia, diciamo, di filastrocca. Poi sempre in Inghilterra c'è la prima storia delle filastrocche del 1899, quindi già siamo già alla storia, che le collega a società primitive. C'è poi uno studio comparativo pochi anni dopo, quindi già il primo studio comparativo, questo è molto importante, della Eckenstein, che è del 1906, quindi c'è già un'attenzione a livello mondiale, addirittura la Eckenstein ha questa visione molto allargata, certo. E nelle filastrocche sugli animali pensa agli animali totem, al collegamento con gli animali totem, quindi per lei antropologo. Questo. E così si continua sempre di area anglosassone, ci sono molti altri studi più recenti che comunque tutti vedono nella filastrocca questo riflesso di riti e comunque tracce di età preistorica. Bim bum bale giù! La filastrocca, in tutte le sue varianti, come ad esempio le conte, rappresenta un oggetto prismatico. Datazione, etimologia, autonomia rispetto al gioco, se è cantata o recitata, le modalità di trasmissione, quali generi ha, che funzioni ha, che significati ha, molte domande a cui non si è riusciti ancora a dare una risposta univoca. Quello che è certo è che la filastrocca, come vedremo anche nella puntata successiva, è un oggetto letterario particolarmente malleabile e ci ricorda in questo senso quello che diciamo sulla cultura da qualche puntata oggi, e cioè che la cultura è un elemento plastico e fortemente plasmabile a piacimento. L'insegna di un negozio può dare vita a una nuova filastrocca, per esempio. Allo stesso modo, le filastrocche si possono trasmettere e fissare nella tradizione, come nel caso di Ambarabaci Cicocò, oppure scomparire dall'uso, come accade a un grande numero di filastrocche dialettali e circoscritte in aree geografiche molto ristrette. Nella prossima puntata vedremo come in Italia sono state percepite e affrontate tutte le domande che questo genere, apparentemente innocente e infantile, solleva e non risolve. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringraziamo il professor Vagliani e la dottoressa Pasino per la gentile collaborazione, nonché Carlo e Sara alla parte tecnica. Ricordiamo i nostri contatti www.110.unito.it e cosigiocalmondo.blogspot.com per riascoltare le puntate e inviarci spunti o domande. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni.